da qualsiasi persona che non abbia particolari autorizzazioni di accesso, ad esempio. Da questo punto di vista, fonte aperta è anche l'archivio di Stato, è una fonte aperta accessibile da chiunque, salvo il fatto che sia chiuso perché manca il personale, ma insomma, almeno in teoria dovrebbe essere accessibile da chiunque. Non è invece fonte aperta un archivio come per esempio l'archivio corrente di una banca o di un ufficio, al quale evidentemente hanno accesso soltanto le persone autorizzate, i dipendenti dell'ente, della banca, dell'ufficio. Per il resto si parla di fonti aperte. Quindi da questo punto di vista, dal punto di vista strettamente giuridico, se voi andate all'archivio di Stato o a qualsiasi archivio pubblico, quelle sono fonti aperte. Non è il caso, per esempio, di archivi personali o di famiglia dove potete accedere sulla base della cortesia di chi li gestisce. Ma comunque, da un punto di vista giuridico, fonti aperte sono tutte le fonti attingibili da qualsiasi persona non abbia particolari requisiti. Da un punto di vista storico il discorso è un pochino diverso, perché ad esempio la fonte d'archivio, anche pubblica, non viene ritenuta fonte aperta. In che senso? Nel senso che lo storico distingue fra fonti che sono immediatamente disponibili al momento in cui avvengono i fatti, perché è ovvio che lo storico si occupi di fatti precedenti, e fonti che invece non erano disponibili al momento dei fatti e si sono rese disponibili solo quando sono passate ad archivi di Stato, ad archivi pubblici. Ad esempio, una relazione di polizia del 1973. Da un punto di vista, passata all'archivio di Stato, da un punto di vista giuridico è fonte aperta, perché quello che interessa dal punto di vista giuridico è il momento in cui consulti la fonte. Per uno storico non è fonte aperta, perché quello che interessa allo storico è il momento non in cui tu fai la ricerca o la consultazione, ma la disponibilità del documento all'epoca del fatto. Vi è chiara questa distinzione? Bene, per fare un esempio di cosa sono le fonti aperte, di come si usano le fonti aperte, noi faremo adesso un'ipotesi. Immaginiamo di star lavorando su un evento in corso in questo modo e quindi stiamo facendo un'esercitazione di presente come storia. Chiariamo questo concetto. La storia del presente, la storia di oggi non si può fare, la storia di ieri sera non si può fare. Vuoi perché appunto una serie di fonti sono non note e lo storico ha bisogno sempre di conoscere anche fonti non immediatamente note. Vuoi perché, e beh, gli avvenimenti di oggi sono ancora in corso, non si sono conclusi. Tu puoi fare la storia di una partita di pallone, quando è finita la partita, o di un campionato di calcio, quando si è concluso il campionato. Non puoi fare la storia di un campionato a febbraio, mentre il campionato è ancora in corso. Al massimo puoi fare la radiocronaca di una partita, ma non puoi fare la storia. Questo però non significa che noi non possiamo intendere il presente come storia. In fondo, se la storia è un intreccio di nessi causali, per cui nulla sorge senza cause e niente passa senza conseguenze, quindi oggi sarà comunque la storia di domani. Noi possiamo non fare la storia di oggi, ma pensare l'oggi storicamente collocato. Possiamo porci il problema di leggere il presente come un pezzo dell'evoluzione storica, parzialmente noto, parzialmente non noto, perché deve ancora determinarsi. È ovvio che se io dovessi fare questo genere di operazioni, quindi le domande che io mi pongo sono, oggi il presente come si spiega? Quindi sono le cause di quello che sta accadendo. Secondo, quello che sta accadendo, che conseguenze è possibile che lasci? Attenzione, sto usando il condizionale, cioè sul seguito io sto facendo un'ipotesi. È chiaro? Bene. Immaginiamo che io voglia fare questo genere di esercitazione, voglio applicare dell'analisi storica a un fenomeno in corso. E quindi in qualche modo è ovvio che la mia è un'esercitazione altamente imperfetta. Quasi sicuramente buona parte delle mie ipotesi sono destinate a essere smentite. Quasi certamente alcuni dei nessi causali che io oggi vedo saranno quantomeno parziali o reticenti perché non ho a disposizione quella documentazione riservata che me li rivelerà in futuro. Quindi devo sapere che sto facendo un'operazione altamente imperfetta, che però non per questo non ha una sua utilità. Quello che io posso cercare di cavare pensando il presente come storia, cos'è? Non è tanto il singolo avvenimento, la spiegazione di quello che materialmente sta facendo un attore oggi, magari in forme coperte. Io posso tentare di individuare le tendenze, che tendenze si stanno formando. Qui vedete che la storia, la politologia, la sociologia, l'economia, diciamo in qualche modo si livellano, sono parallele l'una all'altro nell'immediatezza del fatto. Se io penso il presente come storia, è ovvio che non posso che lavorare su fonti aperte. A meno di non avere a disposizione un servizio segreto che mi fa sapere, conoscere quei documenti riservati perché magari li spia, io posso lavorare solo sulle fonti aperte. Allora con voi voglio fare un esperimento. Voglio vedere come ci organizzeremmo se dovessimo tentare di fare questa esercitazione di storia del presente su un fenomeno che è in atto esattamente in questi giorni, il caso Wikileaks. Il caso Wikileaks, come voi sapete, è in corso con la valanga di documenti che quotidianamente esce online e ci pone una serie di problemi. Primo, che peso dobbiamo dare all'avvenimento? L'avvenimento si presenta come avvenimento piuttosto modesto, per esempio, molti commentatori dicono: vabbè, tutto sommato, le rivelazioni che fa Wikileaks sono rivelazioni di nessun peso. Su che l'Arabia Saudita fosse preoccupata dell'Iran e pensasse a una guerra contro l'Iran e non ci voleva la sfera di cristallo per capirlo, che gli americani avessero preso male l'affare South Stream, cioè che un paese appartenente alla NATO come l'Italia si mette a fare affari segreti con Mosca, e beh, insomma, è chiaro che gli americani non si mettono a ballare. Quindi, tutto sommato, queste cose noi già le sapevamo. Tutto sommato si tratta di un episodio, sì, sul piano della cronaca di qualche rilievo, ma che non lascerà particolari conseguenze storiche. C'è al contrario, e per esempio in parte questa è stata la posizione espressa da un personaggio di peso come il generale Carlo Jean, che forse è uno dei due massimi esperti di geopolitica in Italia, geopolitica essendo una disciplina che io ritengo scientificamente infondata, però questo è un altro paio di maniche. Invece, all'estremo opposto si colloca il commento del nostro ministro degli esteri Frattini, che dice: no, questo è l'11 settembre della diplomazia, è l'equivalente dell'attacco alla Twin Tower. Allora, dei due chi c'ha ragione? Prima domanda a cui dobbiamo rispondere: qual è il peso dell'avvenimento che abbiamo di fronte? Secondo, qual è la natura di questo avvenimento? E questo ci porta inevitabilmente a fare delle ipotesi, sottolineo ipotesi, ragazzi. Insomma, Wikileaks cos'è? È quello che dice di essere? Wikileaks dice: siamo un gruppo di giornalisti freelance che si sono messi d'accordo con un gruppo di hacker. Dentro ci avevamo una banda di dissidenti cinesi a addestrati a lungo ad aggirare la censura dello Stato cinese, la censura web dello Stato cinese, quindi che in qualche modo avevano maturato un'esperienza particolare. Tenete presente che la censura dei servizi segreti cinesi sul web è estremamente efficace e a maglie molto strette, cioè non è una cosa leggera. Cioè, quindi avevamo questo genere di esperienze, di conoscenze, di precorsi, e siamo riusciti a fare questa operazione che ci ha permesso di violare i siti e le reti, per esempio la diplomazia americana. Questi sono documenti che abbiamo trovato, noi siamo per la trasparenza, li buttiamo online. C'è chi dice: ma a chi la volete andare a dire? A chi volete andare a intendere questa cosa? Primo, non è possibile che voi abbiate potuto violare le reti per queste ragioni. Secondo, ma come mai gli americani, i servizi di rete americani sono notoriamente molto potenti, non hanno attivato un'azione di contrasto per bloccare in anticipo? Come mai l'azione di contrasto dei servizi americani è stata così fiacca e così debole? E allora via una serie di ipotesi, ma soprattutto il quesito è questo: siamo di fronte a un'azione di hackeraggio free, o siamo di fronte a una grande operazione di intelligence a livello mondiale? È ovvio che questo si collega al quesito precedente, perché se siamo di fronte a una grande operazione di intelligence, è evidente che le conseguenze storiche non saranno di poco conto, saranno molto più profonde. Viceversa, non è detto che se si tratta di un'operazione di hacker vuol dire che sarà una cosa passeggera, potrebbe comunque avere lo stesso conseguenza. Però vedete, cominciamo a strutturare logicamente l'albero dei quesiti a cui dobbiamo rispondere. Naturalmente, se partiamo dall'idea, ovviamente c'è una terza soluzione, che siamo di fronte a qualcosa di misto. Per esempio, Wikileaks è effettivamente un gruppo di giornalisti freelance e di hacker che fanno questo lavoro, ma forse inconsapevolmente sono stati intossicati dall'arrivo di un qualcuno legato a qualche servizio segreto che è riuscito a manovrarli, ad eterodirigerli, come si dice in gergo, facendogli fare un'operazione della quale forse non sono neanche perfettamente consapevoli. C'è quindi questa terza soluzione un po' intermedia fra le due. Ovviamente, nel momento in cui fosse vera la prima risposta, cioè Wikileaks è quello che sembra, punto. Vabbè, non si dà luogo a ulteriori quesiti di questo tipo, ma se fossero vere le altre due ipotesi, cioè operazioni di intelligence o pienamente condotta da un servizio oppure attraverso l'infiltrazione e la manipolazione di questo gruppo di giornalisti freelance, pur sempre a un servizio, ma sarebbe comunque un'operazione di intelligence, lì ci dobbiamo porre ulteriori quesiti, cioè chi la sta facendo, quali sono le ipotesi, chi sta facendo perché quello che accade. E in base a questa struttura di quesiti, noi poi potremo porci il problema: quali sono le conseguenze che possiamo ipotizzare? Se riteniamo che questa è una cosa che lascerà delle conseguenze, dobbiamo capire su che cosa. Primo, cosa succederà alla rete? Sarà ancora un mezzo affidabile? Perché nel momento in cui venisse fuori che realmente è possibile violare la rete in questa maniera, vi rendete conto che questo significa dire che non esiste la possibilità di proteggere i messaggi in rete? Pensate ad esempio alle banche. Potrebbero continuare a usare il mezzo online per le loro transazioni o dovrebbero tornare ai vecchi tradizionali sistemi? Pensate che le banche, in tutto questo, le banche sono l'anello debole della catena. Perché? Per due ragioni: perché mentre gli stati, vabbè, hanno a che fare solo con altri stati o con i loro oppositori interni, le banche hanno a che fare, oltre che con lo spionaggio degli stati, anche con quello dei concorrenti che sono interessati, per esempio, a provocare una crisi, a screditare un concorrente. Non solo, ma soprattutto le banche sono l'anello più fragile per un'altra ragione, perché se io metto in rete certe rivelazioni su una banca, se metto in rete certe rivelazioni su uno Stato, possono esserci anche conseguenze molto gravi, ma che probabilmente si sviluppano in tempi, se non lunghi, medi, difficilmente la pubblicazione di un documento in rete fa scoppiare una guerra domani mattina. Insomma, non è ipotizzabile molto facilmente una cosa del genere. Mentre invece io posso mandare a fondo una banca nel giro di pochi giorni, se io tiro fuori documenti per cui la banca XY è totalmente insolvente, ha nascosto il suo reale stato, per il quale ha un grado di sofferenze tale per cui non rientrerà mai del capitale che ha esposto. Questo significa che il giorno dopo i risparmiatori prendono d'assalto quella banca, gli sportelli per ritirare tutto quello che hanno. E la banca è tecnicamente fallita nel giro di pochi giorni, 2 o 3 giorni. Quindi, per esempio, se realmente la rete è violabile a questo livello, dovete pensare a una rivoluzione nel mondo della finanza, del rapporto con la rete. Dovete pensare, se veramente è così, a una rivoluzione nel mondo delle relazioni internazionali. Come si potrà più fare relazioni internazionali in un mondo del genere? Si potrà ancora usare la rete? Tenete presente una cosa, si dice una sciocchezza, e vedo che oggi la riprende Sergio Romano. L'azione di Wikileaks sarebbe una azione contro la diplomazia segreta. In questo senso sarebbe la ripresa di un vecchio ideale perseguito dal presidente americano Wilson, che fu quello che portò alla nascita della Società delle Nazioni, e all'azione decisa da Lev Trotsky, ministro degli esteri della Repubblica Socialista Sovietica, anzi all'epoca russa, subito dopo la rivoluzione, pubblicando i documenti, i trattati segreti fra Russia, Inghilterra e Francia. Ecco, attenzione. Non è così, almeno lo stato attuale non è così. Diplomazia segreta riguarda i rapporti bilaterali, il trattato che io posso aver fatto con lui e che abbiamo tenuto segreto. Ma se un mio ambasciatore mi manda un cablo, quella non è diplomazia segreta, quella è una corrispondenza interna, chiaro. Quindi in realtà parlare di violazione della diplomazia segreta nel caso di Wikileaks è un'evidente sciocchezza, non è un caso di diplomazia segreta, qui c'è una violazione di corrispondenze interne che possono anche avere però dei riflessi sulle relazioni internazionali. E quindi come saranno le relazioni internazionali domani dopo un terremoto del genere? Soprattutto con le rivelazioni che ci sono state e la rete, nel caso Wikileaks, rivela anche una serie di cose, rivela come è cambiato il mondo dopo il 1989 o 91, se preferite. La fine del mondo bipolare ha segnato la fine dei sistemi di alleanza, cioè in realtà che cosa sta venendo fuori da questi documenti? Che nessuno è alleato fino in fondo di nessun altro, che non esistono più schieramenti, per cui tu Italia, sì, sei alleato degli Stati Uniti, che fai parte della NATO, partecipi a operazioni di guerra come l'Iraq o l'Afghanistan, però poi sottobanco fai gli affari, anzi, dice la diplomazia americana, lucrosi affari con la Russia di Putin in scontro diretto e frontale con le strategie americane, perché la questione dei gasdotti non è solo una questione economica e finanziaria, ragazzi, è una questione di carattere politico-militare. Il gasdotto South Stream e l'altro Nord Stream, ipotizzati dalla Russia, cioè realizzati dalla Russia, sono fatti in modo tale da aggirare l'Ucraina, la Bielorussia e il blocco dei paesi più filoatlantici, più filoamericani nell'Europa orientale. Questo che cosa significa? Banalmente significa questo, che la Russia sta ponendo le premesse per una riorganizzazione dello spazio politico e l'ipotesi fatta ripetutamente, la troverete sulla rivista Limes, per esempio, molto ben documentata, per cui la Russia punta a una dissoluzione dell'Ucraina, per cui le vecchie province zariste dell'Ucraina costituiscono una Repubblica Ucraina federata all'Unione Panrussa. Altre province, le province più orientali, 4-5 province più orientali, vengono direttamente assorbite dalla Repubblica Socialista, dalla Repubblica Russa, socialista, pardon, era un tic, dalla Repubblica Russa attuale. E solo il piccolo gruppo delle province che facevano parte dell'Impero Austro-Ungarico, quelle cattoliche, uniati, che sono intorno all'ex città di Leopoli, attuale Lvov, diventano l'Ucraina indipendente. Cioè, praticamente, l'attuale Ucraina, che è il secondo Stato europeo dopo la Russia, più grosso della Germania, si riduce a uno staterello da Principato di Varsovia, da operetta. E voi capite che questo cambia la mappa delle relazioni internazionali, dei rapporti di forza nel mondo. È chiaro che se la Russia riesce a mettere a segno questo colpo, non è solo una questione economica, è anche un'operazione politico-militare. Ed è ovvio che gli americani non ritengano un loro alleato affidabile, un alleato che tiene bordone alla Russia su un terreno di questo genere. Ma anche cinesi e russi sono realmente alleati o no? E i documenti americani ci dicono, ci raccontano di un Hu Jintao orientato essenzialmente allo sforzo di conquistare l'egemonia in Asia. E l'egemonia in Asia significa, vabbè, certo che i cinesi per ora sono stati alleati dei russi con l'Organizzazione di Cooperazione di Shanghai, che ha consentito la definizione di uno spazio sino-russo. Però attenzione, in prospettiva questo significa che il contenzioso fra cinesi e russi per le province dell'estremo oriente russo, cioè in particolare la provincia di Vladivostok, eccetera, è solo momentaneamente rinviato, ma probabilmente si riprenderà. E nel frattempo la penetrazione cinese attraverso l'emigrazione prosegue alacremente. Allora, già la lettura di questi dati, pensate all'effetto che questo avrà nel mondo islamico. Sì, lo sapevamo tutti quanti che l'Arabia Saudita non amava Ahmadinejad, però adesso c'è un documento con un timbro dell'ambasciata americana che dice che uno Stato islamico come l'Arabia Saudita ha chiesto a uno Stato cristiano come gli Stati Uniti di fare guerra a un altro stato islamico come l'Iran. Avete idea di qual è l'impatto di tutto questo in mano alla propaganda fondamentalista? A cosa significherà questo sullo scenario interno dei paesi islamici? Ecco, un'analisi sistematica dei documenti, per esempio, ci permette, anche senza darci, attenzione, questa è la cosa importante, senza darci grandissime novità, ma semplicemente per il fatto di certificare intuizioni che già c'erano, di mettere il bollo sotto, cambia. Perché Karzai lo sapeva di essere scarsamente considerato dai suoi alleati americani e probabilmente i suoi giochetti con i talebani li faceva. Ma faceva finta di non saperlo. Ecco, adesso Karzai non può più fare finta di non saperlo, di essere considerato dagli americani un imbecille con un fratello narcotrafficante. Questo è quello che si dice. Cioè, non è esattamente la cosa più leggera di questo mondo. Come cambieranno le relazioni internazionali? Ma soprattutto come già sono cambiate? Come è finito il discorso delle alleanze? Noi stiamo andando piuttosto a un mondo nel quale emergono grandi potenze di area che stabiliscono un sistema di geometrie variabili, di accordi, su singole materie di volta in volta con alcuni interlocutori o con altri. Quindi un sistema di relazioni internazionali molto più complesso del passato e per certi versi meno prevedibile nei suoi comportamenti, meno lineare. Cioè, mentre prima tu potevi pensare che se la Nord Corea lancia un attacco contro un'isola della Sud Corea, tutto il mondo si sarebbe sentito sulle soglie della guerra. Sarebbe stato uno scontro fra i due blocchi. In fondo, il primo grande scontro fra i due blocchi fu appunto la guerra di Corea, e tutti ci saremmo sentiti quando Cuba annunciò che avrebbe installato i missili russi e gli americani dissero: non ci pensate nemmeno, cioè io, noi consentirvi di mettere dei missili a portata di tiro di tutte le nostre principali città non esiste, sbarchiamo piuttosto. Io ricordo, ero bambino. Ricordo quella sera del 27 ottobre 1962, l'intero mondo si riteneva sulla soglia della guerra. E badate, non c'era ancora nessun fatto militare, c'era solo la previsione di un intervento americano sulla previsione di installazione dei missili russi. Ma ormai tutti eravamo convinti, io ricordo il terrore a casa mia, del siamo alla guerra. E la guerra non c'è dubbio che sarebbe stata fatta dai due schieramenti, vabbè, salvo l'Italia che normalmente fa sempre la guerra dalla parte contraria al blocco di alleanza a cui appartiene, ma questo è un caso un po' particolare del nostro paese. No, se, ci sarebbe stata la guerra fra il blocco occidentale e il blocco orientale. Oggi la Nord Corea attacca la Sud Corea. Beh, chi si sente sull'orlo della guerra? È una crisi regionale, sta là. Cosa farà la Cina? La sosterrà? Ah beh, stando ai documenti Wikileaks viene fuori che invece la Cina si è anche un po' rotta le scatole di questi vicini un po' troppo turbolenti che sono i nordcoreani. E allora che giochi nasceranno? Il Vietnam è storico nemico degli Stati Uniti, il Vietnam, vero? Sì, che adesso fa le manovre navali insieme agli Stati Uniti per contenere la pressione cinese. Ecco. Hai una serie di giochi interdipendenti per cui appunto devi leggere le relazioni internazionali, per esempio applicando la teoria dei giochi, cioè formule di ragionamento, di logica formale che consentano di cogliere comportamenti controintuitivi. Bene, questa è una panoramica, scusatemi se mi sono dilungato, su quali problemi noi dovremmo cercare in qualche modo di affrontare sapendo in partenza dell'alta imperfezione del risultato delle nostre ricerche. Bene, dovendo rispondere a questi quesiti, che cosa dobbiamo fare? Che fonti dobbiamo scegliere? Come dobbiamo impostare il nostro lavoro? Beh, prima di tutto, che fonti dobbiamo scegliere? Dividiamo il lavoro in due parti. Noi non siamo dei giornalisti, non siamo dei politologi, non siamo degli economisti o dei sociologi. Siamo degli storici. Quello che caratterizza il nostro mestiere è sempre e pur sempre la prospezione storica, quindi l'analisi in profondità del passato per cercare la spiegazione del presente. Quindi, prima di tutto, la formulazione del nostro background, come dire, delle fondamenta della nostra ricerca sarà nella nostra visione della formazione dei processi storici che hanno portato al mondo attuale. Quindi la conoscenza, che normalmente avviene attraverso lo studio di libri e di riviste, dei vari scenari, dei vari soggetti, delle varie occasioni, delle varie crisi che possono spiegare il mondo attuale. Quindi, c'è cioè, un primo aspetto che è di natura propriamente storica, di studio dei precedenti, dei fondamenti dell'esistente. Dopo, sulla base di questo, noi articoleremo quell'albero logico di domande che io vi ho prospettato e sulla base di quello vedremo quali fonti dobbiamo andare a cercare. E ovviamente le due fonti principali non potranno che essere principali, attenzione, dal punto di vista non dell'importanza, dal punto di vista dell'abbondanza del materiale. La stampa e internet. E beh, in fondo stiamo parlando di una cosa che è scoppiata online e quindi dobbiamo assolutamente lavorare sul materiale online. Partiamo da questo. Online che cosa c'è? Beh, ovviamente dobbiamo seguire giorno per giorno cosa viene fuori di Wikileaks, no? I documenti che pubblica. E dobbiamo analizzarli, dopo vedremo che significa l'analisi. Ma non basta, noi dobbiamo vedere anche cosa avviene su Wikileaks o anche indirettamente. Dobbiamo vedere che conseguenze, per esempio, sta avendo. Se Wikileaks ha parlato di una certa banca, vediamo che si dice di quella banca in rete. Per fortuna internet è molto veloce nelle consultazioni, da un materiale terribilmente inaffidabile. Dovete sempre stare attenti a prendere con le pinze tutto quello che viene fuori su internet. Però, in compenso, ti mette a disposizione un materiale pressoché infinito in tempi rapidissimi. Semmai il problema è leggerlo, no? Il problema è avere il tempo. Secondo, dobbiamo vedere, quindi intanto le conseguenze, le ipotesi che noi facciamo, le dobbiamo vedere in itinere. Cioè, se noi stiamo pensando che questa è una cosa che può avere conseguenze storiche di un certo rilievo, e noi dobbiamo vedere momento per momento se questa tendenza si sta configurando o no. La reazione dei vari stati, dei vari enti economici, eccetera, eccetera, della stampa e così via. Quindi in qualche modo occorrerà uno studio sistemico di queste cose. Lo stesso lavoro andrà fatto ovviamente sui giornali, con la differenza che i giornali offrono un materiale un po' più controllato, un po' più organizzato di quello che non è internet. E qui già si pone un problema, ragazzi, in generale, che avete. Vedete, il mondo attuale è un mondo che soffre di overesposizione informativa e di ipoesposizione informativa, cioè c'è una sovrabbondanza di informazioni molto maggiore di quella che ci servirebbe. Però di alcune notizie, mentre di altre notizie non si ha disponibilità perché c'è il segreto, anzi, l'epoca attuale, in ogni epoca ci sono state notizie note e notizie non note. L'epoca attuale è quella che ha polarizzato al massimo ha aperto al massimo le forbici, perché mai nessuna epoca ha disposto della valanga di notizie che avvengono. Nel solo numero di un quotidiano, come il Corriere della Sera, c'è una quantità di notizie, almeno numericamente pari, a quella che avrebbe raggiunto un qualsiasi essere umano di una certa cultura in tutta la sua vita intorno al 600. Noi in un numero di giornale abbiamo la stessa quantità di notizie, non dico importanza, almeno quantità, ma anche dal punto di vista della qualità. E beh, voi pensate a quanto noi sappiamo della diplomazia dei paesi più lontani, di quello che succede, delle crisi sociali in Corea piuttosto che in Argentina. Quando mai una cosa del genere sarebbe stata conosciuta nel 600, perlomeno in tempi così vari? Quindi da un lato abbiamo una overdose di informazioni, però da un altro lato il nostro mondo è stato caratterizzato da una crescente funzione del segreto. Noi nell'ultimo secolo, o secolo e mezzo, abbiamo codificato una quantità di segreti che prima non c'erano. Pensate al segreto industriale, non solo al segreto di Stato, in realtà, per quanto vi possa sembrare strano, è una creazione piuttosto recente, perché in realtà, essendo tutto arcani imperi prima, e quindi nulla conosciuto, non si poneva il problema di codificare il segreto. La codifica del segreto è nata man mano che c'era il processo di affermazione della democrazia, per cui da un lato bisognava rendere trasparenti i meccanismi di formazione delle decisioni, dall'altro però bisognava sottrarre alcune materie alla discussione pubblica. Per È il caso che vi dicevo della corrispondenza interna a una diplomazia. E quindi nasce così l'idea del segreto politico militare, ma poi c'è il segreto bancario, per esempio, che è nato essenzialmente a seguito della persecuzione degli ebrei da parte del regime nazista, per cui la Svizzera istituì il segreto bancario per schermare i suoi clienti ebrei tedeschi. E poi la cosa si è generalizzata. Ma il segreto industriale, il segreto tecnologico, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi noi viviamo in questa situazione in cui molte notizie ci vengono sottratte, sono blindate e segretate. Però, d'altro canto, disponiamo di una quantità di notizie eccessiva rispetto alle nostre ricerche, alle nostre esigenze. E dunque la prima cosa che voi vi dovete porre quando iniziate una ricerca del genere è il criterio col quale selezionate le notizie. Non potete leggere tutto. Internet è la prova più evidente di tutto questo. Se voi cominciate a seguire internet e tutto quello che c'è su internet, non avete il tempo, manco se ci passate l'intera giornata davanti al computer. Dunque, occorrerà darsi dei criteri per scegliere le notizie e questi criteri, ovviamente, devono essere astratti e pregressi, perché altrimenti il rischio qual è? Che tu ti fai un'ipotesi su come stanno andando le cose e ti scegli i documenti che ti convalidano quello che pensi e scarti tutto quello che non ti fa comodo. Ecco, questo è il primo rischio che bisogna evitare. Quindi la formazione dei criteri della scelta delle fonti deve essere pregressa a monte. Quindi le fonti devono essere caratterizzate per tipologia, per argomento, per affidabilità, una serie di criteri. Ad esempio, se so che quel sito è un sito di cazzari che tira fuori una scemenza al giorno, vado a vedere. Invece quel sito, che pure non è che sia tanto affidabile, però in questa vicenda può aver avuto un ruolo, eccetera, eccetera, senza che per questo io stia a credere quello che dicono, però devo controllarlo perché di lì posso osservare alcune reazioni. Quindi di volta in volta, per esempio, c'è il criterio dell'affidabilità, dell'importanza. Non ho la possibilità di leggermi 300 pagine per ricavare sì e no due righe. Quindi la consultazione deve avvenire con meccanismi, per fortuna internet lo consente, anche abbastanza veloci di approccio automatico al testo, di trattamento automatico della lingua. Terzo, quanto è più recente o meno una fonte. Quindi in qualche modo ti costruisci una griglia per la quale selezioni i siti o i giornali che devi vedere. Una delle norme di precauzione scientifica, di prudenza, è quella di ponderare e differenziare le fonti. Mai fonti troppo simili, troppo vicine fra loro. Troppo vicine dal punto di vista ideologico, dove alla fine trovi che la zuppa è sempre la stessa, perché ce la stiamo raccontando fra noi e noi. Quindi privilegiare anche una certa differenziazione. Secondo, mai fonti troppo vicine da un punto di vista professionale. È sempre meglio, ad esempio, i giornali. Se hai un giornale a vocazione essenzialmente politica, come La Repubblica, sarà utile consultare un altro giornale a vocazione essenzialmente economica come il Sole 24 Ore. Perché? Perché infatti basta, se voi leggete, peccato che ho fatto la sfoglia dei giornali oggi, no? Se voi confrontate Repubblica e Corriere, vedete che sono desolantemente uguali, i titoli talvolta sono identici, l'impaginazione. Crisi di governo, tutti e due crisi di governo. Quello in realtà sono tutti e due giornali politici fatti grosso modo poi sulle stesse fonti, E quindi alla fine riproducono lo stesso cliché con sfumature un po' più di sinistra Repubblica, un po' più neutrali. Il Corriere della Sera, usiamo questa espressione assolutamente non vera, però no, giusto per capirci. Un po' più di destra il giornale, ma alla fine vedrete una grande convergenza. Invece, vedete che per esempio solo 24 ore in prima pagina ti mette quello che Repubblica mette in sedicesima pagina e a pagina 7 ti mette la notizia che Repubblica ha messo in prima. Quindi già questo ti fa capire che i criteri di lettura del mondo di questi due giornali sono diversi. Quindi mai fonti troppo vicine ideologicamente, mai troppo vicine dal punto di vista proprio professionale, delle tecniche, possibilmente di contesti, di paesi diversi. Per esempio, interessante può essere seguire la stampa italiana e un settimanale come Economist, settimanale inglese. Non avendo i mezzi e le possibilità, giornale come l'Internazionale che traduce da una serie di giornali stranieri può essere un'alternativa che permette di avere un panorama un pochino più, non solo nazionale, ecco. Quindi nella selezione delle fonti tenere presente questa esigenza. Anche perché man mano che noi preciseremo l'ipotesi, ricordatevi una cosa, altra norma fondamentale è non fare mai una sola ipotesi, avere sempre una scala di ipotesi su cui si lavora, magari ordinata in ordine di probabilità, per cui una cosa è più probabile dell'altra, però attenzione perché dovete sempre avere delle subordinate. Vi serve sia a prendere distanze dalla vostra ipotesi principale, perché altrimenti vi innamorate troppo di un'idea, sia ad avere una certa elasticità nel registrare i fatti nuovi che possono confermare un'ipotesi secondaria e smentire la vostra ipotesi principale. E voi dovete essere abbastanza flessibili da modificare il vostro ordine mentale di probabilità. Non è più l'ipotesi X la più probabile, ma la Y. In ogni caso, voi dovete raccogliere le notizie per come sono, senza stare a fare scelte di tipo questa non mi piace e quindi la scarto. Ça va sans dire, norma fondamentale è applicare il medesimo criterio a tutti quanti senza fare due pesi o due misure. Se state formulando un'ipotesi, sono i servizi segreti israeliani, cinesi o americani che stanno dietro Wikileaks, scordatevi di avere uno più simpatico dell'altro. Ciascuno di noi ha le sue brave simpatie politiche, ideologiche, le sue antipatie anche epidermiche. Questo deve influire il meno possibile. Lo stesso metodo di ragionamento deve essere applicato nella stessa misura a tutti quanti. Torniamo alle fonti. Allora, prima cosa è dovete crearvi un crivello per selezionare, ad esempio, i libri. Ma voi i libri li sapete usare? Quando qualcuno viene a casa mia, io ho una biblioteca non molto ordinata, devo dire la verità, però piuttosto così, non è colpa mia, c'ho poco spazio. Cioè, c'ho poco spazio e avendo 25.000 volumi, in qualche modo fanno un po' a cazzotti fra di loro. Immancabilmente c'è quello che mi dice li hai letti tutti? E io gli rispondo, guarda che un essere umano vive mediamente 20.000 giorni. Se ogni giorno legge un libro, qui ce ne sono 5.000 di più di quelli che la vita mi riserva. Non tutti i libri si leggono o si leggono per intero, ragazzi. I libri hanno una loro classificazione. Ci sono i libri che si studiano, cioè che si leggono più volte, che si sottolineano, si analizzano, si fa riassunto, eccetera. Ci sono i libri che si leggono più o meno per intero, ma ci sono i libri che si consultano, che si leggono per un capitolo o due, talvolta per una notizia, e quindi bisogna saperli manovrare, per esempio, all'indice dei nomi. dalla quarta di copertina, dall'indice generale, se c'è l'indice di materia. I libri talvolta servono per essere consultati per poche righe. Poi ci sono i libri che si tengono eventualmente per consultazione quando fosse necessario, e poi ci sono i libri che hanno un'altra funzione, che è quella se avete un mobile che per esempio ha una zampa più corta dell'altra, il libro è lo spessore ideale per poggiare. In genere i libri universitari sono un ottimo rimedio a queste cose. Tornando a noi, lo stesso ragionamento riguarda le riviste e riguarda i giornali. Fondamentale nella vostra generazione manca molto la cultura delle riviste specializzate. In lavori di questo tipo, molto più dei libri, sono importanti le riviste, avendo anche qui cura di differenziare il panorama, cioè le riviste sono riviste spesso specializzate. Allora, per un caso come WikiLeaks, dovete spaziare da riviste di natura geopolitica come l'Innes o come Aspenia, a riviste di natura militare, dove potete trovare molte notizie di intelligence, per esempio, come la rivista italiana della difesa, il Panorama Difesa, a riviste economiche, dove potete trovare altro genere di notizie, a riviste di politica internazionale, che è una cosa un po' diversa dalla geopolitica. Nel caso specifico, per esempio, riviste informatica, magari vi rivolgete a qualche amico che ne sa di più. Per esempio, poniamoci questo problema. Ma la versione che ci dice WikiLeaks è credibile o no? Ah, la prima cosa è: ma come hanno fatto a violare la rete? Come hanno fatto a superare i meccanismi di sicurezza delle comunicazioni della diplomazia americana? Per esempio, è lì, facendovi aiutare da qualcuno che è esperto, magari andate a studiarvi un po' di cose. Ecco, vedete come bisogna attingere a un panorama differenziato. E qui la raccomandazione di privilegiare fonti di approccio disciplinare diverso è più trasparente di tutte. A volte io nelle mie ricerche ho trovato, io mi occupo spesso di strategia della tensione, eccetera. Beh, io trovai una cosa che mi interessava, non mi chiedete perché ho deciso un pomeriggio di leggere quel libro, ma trovai una risposta in un libro che è quanto di più lontano si possa immaginare da ricerche sulla strategia dell'attenzione. E il libro era un libro sui missionari del preziosissimo sangue a Bari, che uno dice: ma che diavolo c'entra? Invece no, io lì trovai una risposta importante a come era nato il discorso del sacrario dei caduti oltremare nella mia città, dietro cui c'era un'operazione di intelligence, di spionaggio nei confronti dell'Albania, in cui erano coinvolte le persone che poi mi interessavano per le mie ricerche. Se qualcuno di voi mi chiede: ma come ti è venuto in testa di leggere? Io sono ateo, sono laico, eccetera. Non è il mio campo di interesse una cosa del genere. Mi trovai per caso in una sala d'attesa di dentista, c'era quello e cominciai a sfogliarlo. Ma fu una cosa assolutamente. Lì trovai. Ora, non vi sto dicendo che dovete leggere le cose, però tenete conto che qualche notizia vi può arrivare dal campo più disparato possibile. Non è un motivo per disperdersi, ma è un motivo per capire il perché è opportuno sempre differenziare, anche da un punto di vista, come dire, disciplinare, l'arco dei punti di vista considerati. Perché è quello che vi consente talvolta di spiegare quello che non è spiegabile in una certa prospettiva. E se questa bottiglia tu la vedi di qui, non vedrai mai qual è la sua etichetta. Ah no, c'è da tutte e due le parti, va bene, facciamo così, va bene? Hai bisogno di vederla da un altro punto di vista. Allora, prima cosa quindi, selezionare le fonti, ordinarle, esaminarle in modo sistemico. La prima cosa è, vedete, io ho l'abitudine di, sciagurata perché ci affogherò prima o poi, di tagliare le pagine dei giornali che mi interessano, poi man mano raccoglierle nelle cartelline del mio archivio. Un lavoro estremamente utile quando doveste scrivere un libro perché vi trovate la stampa già ordinata per temi, poi anche cronologicamente, quindi voi non avete idea di quanto sia diversa. Provate a fare un esperimento. Mettete da parte un mese di giornali, non leggete, comperate per un mese la Repubblica, eh? Non leggetela subito, mettetela da parte. Poi dopo un mese andate a leggerla. La leggerete con occhi completamente diversi, perché c'è poco da fare. Quando tu leggi il giornale, man mano che i fatti si svolgono, quindi c'è anche una partecipazione diretta del giornale ai fatti, non ti accorgi della quantità terribile di sciocchezze che si scrivono. Quando tu li leggi un mese dopo, quando già sai come sono andate a finire le cose, quando quel tale articolo che quel giorno dava per sicura una certa cosa, poi una settimana dopo si è rivelata assolutamente infondata, leggi il giornale con un'ottica diversa. È un'esercitazione che io vi consiglio per un motivo semplice, perché vi cambierà il modo di leggere i giornali di ogni giorno. Noi abbiamo una lettura del giornale, fatemi. Il giornale può essere letto in due modi diversi. Può essere letto dal lettore abituale, quello che al mattino con la brioche e il cappuccino legge il giornale prima di andare al lavoro o lo legge in tram o in metropolitana. E c'è il lettore professionale del giornale, come può essere lo storico, come può essere il giornalista, come può essere l'addetto ai servizi di informazione e sicurezza, eccetera. Sono due modi completamente diversi da leggere. E voi dovete acquisire questo secondo modo. Allora, primo, la lettura del giornale del lettore comune è una lettura piuttosto casuale, piuttosto, come dire, alla come viene viene, perché magari stai scappando, ti hai incuriosito un articolo, leggi quello, poi non fai in tempo a leggere un'altra cosa, lasci il giornale a metà. Ma soprattutto, non ti ricordi cosa ha scritto quel giornale, non dico 8 giorni fa, ieri, non te lo ricordi già più? Il lettore professionale è un lettore che legge sistematicamente il giornale, cioè, primo, si ricorda quello che il giornale ha già scritto prima su quell'argomento. E quindi è un lettore che, per esempio, sceglie molto, segue alcuni argomenti in modo sistematico. Secondo, è un lettore che confronta sulla stessa notizia fonti diverse, ad esempio Repubblica e il Sole 24 Ore. Terzo, che smonta la notizia perché è consapevole di come si forma la notizia. Se voi usate le fonti aperte, e ci stiamo soffermando soprattutto sul giornale, dovete essere coscienti di qual è il processo di formazione della notizia, dal fatto al tavolo del bar dove siete seduti a prendere il vostro cappuccino. Voi avete una sensazione di ieri è successo questo ad Herat, c'è stato questo attentato, è saltato in aria un nostro lince, sono morti 4 soldati. Vi fate un'idea di questi cattivi talebani che vanno mettendo in giro bombe, dei nostri poveri soldati che lì ci sono incappati, morta là. Nessun dubbio che le cose siano andate come ve le raccontano. In realtà le cose non sono fatte in questa maniera. Com'è nata quella notizia? Primo, il giornalista che scrive di quella notizia non ha mai assistito a quel fatto. Ha interrogato per il semplice fatto che non è pensabile che il giornalista si trovasse a meno di un caso particolarissimo. Cosa vuoi che il giornalista si trovasse in quel momento ad Herat, in una macchina al seguito del lince che è saltato in aria? Nella stragrande maggioranza dei casi, che cosa è successo? Che il giornalista avrà ricevuto una notizia dall'ufficio stampa dello Stato Maggiore delle forze di spedizione italiane che comunicherà è andata così così, naturalmente dando una versione propria. Se ci sono stati combattimenti, se i nostri soldati hanno sparato prima, se, non, voi non lo saprete perché certe notizie scomode saranno state censurate. Tutto questo magari sarà stato affidato qualche volta al corrispondente, più spesso a un'agenzia che ne avrà fatto una sua riduzione, che a sua volta verrà ripresa dal giornale. Il giornalista tutto questo poi lo traduce in un racconto. Ma non è ancora finita perché il giornale in questione e naturalmente in questo racconto giocheranno una serie di elementi. Se tu scrivi per un giornale popolare come oggi che va in mano alle signore in attesa del parrucchiere, e vabbè, lì dovrai forzare sul colore, sul povero sergente tal dei tali che lascia una moglie che è in attesa di un bambino e che gli hanno trovato addosso la foto della moglie, magari non è vero, però fa colore. Se invece scrivi su un giornale, per esempio governativo, tu dovrai esaltare l'eroica funzione dei nostri militari in Afghanistan. Viceversa, un giornale di opposizione sottolineerà tutti quegli aspetti che dicono avete mandato i nostri soldati al macello senza le protezioni necessarie, vero o non vero che sia, eh? Quindi ciascun giornalista poi accentuerà quello che il giornale si aspetta da lui. Tutto questo poi sarà sormontato da un titolo che non è quello che ha scelto il giornalista, ma quello che ha scelto il redattore di quella pagina. Come vedete, la notizia, prima di arrivare a voi, ha attraversato un processo di formazione, un vero e proprio processo industriale di montaggio, durante il quale ovviamente ci sono aggiunte, sottrazioni, sfumature, sottolineature, coloriture di tipo diverso. Un po' come la bistecca che arriva sul vostro tavolo, che dentro ci avrà una quantità di estrogeni, coloranti, conservanti, eccetera, da fare impressione. Beh, qualcosa del genere. La bistecca informativa che sta sul vostro tavolo ha subito un trattamento molto pesante e con diversi interventi. Quindi, ogni volta che leggete un giornale, ponetevi sempre il problema: ma questa notizia come si è formata? Da dove arriva? Chi ci ha messo le mani? Anche per questo il confronto fra notizie, fra giornali diversi, eccetera, è importante. Ma soprattutto abituatevi a una cosa: abituatevi a smontare sistematicamente ogni singolo pezzo. Proprio perché la notizia non è un prodotto semplice fatto da una persona che ti fa la letterina e ti dice: sai, ieri io ero ad Eratte e ho visto questo, questo e questo. No, la notizia, abbiamo detto, è qualcosa in cui intervengono più mani, a più passaggi. Quindi in ogni passaggio può esserci una sottrazione o un'addizione di informazioni, una sottolineatura o una sfumatura, una dissolvenza. E allora la prima cosa, imparate a smontare ogni pezzo, isolando le singole notizie, le singole informazioni. E se quel pezzo è particolarmente importante, fatelo non solo mentalmente, no? Fatelo proprio sull'agenda o su una qualsiasi scheda, un cartoncino che voi conservate, perché magari poi scoprirete che in quell'articolo di 12 notizie, 7 erano stupidaggini totali, inventate, fesserie inventate dal giornalista. Tre erano imprecise, due erano vere ed erano importanti. Questo processo di selezione il lettore normale non lo fa, per cui accumula nella testa una serie di informazioni false che in qualche modo turbano la sua visione del mondo. Il lettore specialista invece opera progressivamente questo lavoro di crivello, di selezione, che lascia decadere il più possibile la fuffa, la paglia che avvolge la merce informazione. Quindi questo è un aspetto fondamentale, ma soprattutto, dopodiché mi pare che farà tantissimo, per cui intanto mi fermerei, scusatemi se vi ho parlato solo di una cosa, ma soprattutto dovrete procedere all'analisi. l'analisi, la lettura e l'analisi sono due cose diverse, non sono la stessa cosa. Una foto, voi sapreste vederla? Ah, per carità, tutti sappiamo vedere una foto, ma non tutti sappiamo leggere una foto. Una foto va analizzata, una foto non è la sensazione che il lettore comune ha. È che la foto è quanto di più immediato. Prendi, guardi e vedi cosa è successo. Non è così. La foto è un documento iconologico bidimensionale. Questo ha un significato e soprattutto parziale. Che cosa significa questo? È un documento iconologico, quindi basato sull'immagine, quindi richiede un'analisi dell'immagine, esattamente come voi leggereste un articolo. Non basta vedere, bisogna poi analizzare i particolari. Ma soprattutto la foto è bidimensionale, quindi ad esempio se dietro di lui si nasconde una persona, e io faccio, non la vedo perché avrei dovuto avere una prospezione tridimensionale per accorgermene, ma nel documento bidimensionale non ho questa possibilità. Ed è parziale, cioè ovviamente io non ho la visione di tutto. Ho la visione del pezzo che è stato inquadrato e fotografato. Questa caratteristica fa sì che l'inquadratura possa non essere casuale. Io posso fare una foto qui tagliando questa fila perché non voglio che si veda lui in questa foto, che farebbe leggere il tutto in modo completamente diverso. Immaginate se questa è una riunione dell'Arma dei Carabinieri per un brindisi dell'Arma dei Carabinieri per Capodanno. Va bene? E improvvisamente, questa è la foto, tutti quanti con il bicchierino in mano, eccetera, eccetera, allarghiamo il campo e lì c'è Bin Laden che sta brindando con i Carabinieri, c'è qualcosa che non va. È chiaro? Cioè, attenzione perché la foto può essere un documento anche malizioso, anche semplicemente a parte poi l'inquadratura, eccetera, eccetera, tenete presente che la foto è un documento manipolabile. Certo, esistono i periti, eccetera, poi per leggere la foto, capire se la foto è un fotomontaggio più o meno, eccetera, tra l'altro sempre più sofisticato perché ormai con i programmi digitalizzati riconoscere un fotomontaggio devi essere uno del mestiere per farlo. Ma questo attiene, diciamo, alla prima parte del discorso, cioè identificare. Il problema è poi leggerla la foto. Qualche volta una foto ti rivela un particolare assolutamente inedito che smentisce. Una foto non è un documento semplice, perché è sempre fatto di due cose, l'immagine e la didascalia. Spesso la foto è assolutamente illeggibile se non ha la didascalia. Se io vi presento la foto di un mercato dove c'è gente che compra frutta, non vi dico l'epoca, la città. Perché quella foto è importante? Magari perché c'è un latitante di mafia lì in mezzo, ma tu non lo sai, non lo riconosci, non sai qual è la città, non sai qual è il posto, in che epoca è stata scattata quella foto. Quella foto è un documento assolutamente muto. Durante la Prima Guerra Mondiale i giornali tedeschi pubblicarono una foto lunga in cui si vedeva una fila di uomini dietro una porta. La didascalia avvertiva che era una fila di persone che andava per ricevere del pane, c'era la tessera per la limitazione degli alimenti. E quindi questo documentava della situazione drammatica che c'era nell'Inghilterra dopo la guerra dei sottomarini che abbattevano i convogli di derrate alimentari, soprattutto dirette in Inghilterra. E quindi questo dimostrava il crollo morale che prima o poi si sarebbe determinato, e più prima che poi, in Inghilterra ormai ridotta alla fame. Qualcuno notò però che erano solo maschi quelli che stavano in fila, e per di più erano solo maschi abbastanza giovani, fra i 20 e i 35 anni, grosso modo. Bastò semplicemente vedere quella foto in originale, poi i giornali inglesi la ripubblicarono, rimettendo la fascia di sopra che era stata tagliata, e che indicava che quella era una fila di volontari che andava a arruolarsi nell'esercito inglese per combattere, perché nella taglia superiore, nella parte superiore tagliata, c'era l'insegna dell'ufficio arruolamento. Ecco, vedete come un intervento malizioso con una didascalia ha stravolto il senso di una foto. La lettura integrale della foto ha consentito invece di raccontare una realtà assolutamente opposta. Cioè non solo l'Inghilterra non era alla fame e al crollo psicologico, ma la gente faceva la fila per arruolarsi. Bene, cosa vuol dire questo? Che la foto non si vede come si vede al bar normalmente, ma per esempio si vede con la lente di ingrandimento quando è un documento di qualche rilevanza, dove i particolari sono solamente fondamentali. Vogliamo sapere quando questa foto è stata scattata. E allora, per esempio, ci sono tutta una serie di particolari che ve lo dicono. Se c'è un'auto, ci sono due auto, cerca di leggere con un opportuno ingrandimento, cerca di leggere il numero della targa. Già quello ti dirà più o meno l'epoca, perlomeno che è un documento fotografico successivo a una certa epoca, alla data di immatricolazione della targa più alta, per esempio. Per esempio, un orologio potrà dirti l'ora della giornata. Per esempio, il particolare di un giornale in tasca a un passante, debitamente sviluppato, eccetera, eccetera, ti permetterà di identificare addirittura il giorno. Il particolare di un bar, di un'insegna o di un monumento ti diranno la città in cui è stata fatta e questo richiede uno studio sistemico. Tornando al nostro caso di Wikileaks, che cosa faremo noi? Ah, prima cosa collezioneremo le rivelazioni di Wikileaks, ma collezioneremo anche le rivelazioni su Wikileaks e soprattutto collezioneremo, e sul suo fondatore soprattutto, collazioneremo soprattutto le reazioni che di volta in volta ci saranno alle pubblicazioni dei documenti. Che cosa dichiara? Per esempio, Putin dice: ah, questa è democrazia, avete arrestato un giornalista. Poi, detto da Putin, voi capite il valore di questo, l'alto valore morale di questo messaggio. Lui, i giornalisti, non li arresta, al massimo li fa assassinare sotto casa, ma poi vuoi che sia. La Cina che reazioni sta avendo? Ha censurato il sito per prima. L'Italia che reazioni ha? Berlusconi minimizza e così via. La catalogazione, ancora una volta, quello che conta non è la singola notizia, state attenti. La singola notizia spesso in sé dice poco. Quello che conta è l'insieme, è la lettura d'insieme. La prima cosa che voi dovrete fare in questo caso sarà la cronologia del fatto, il diario giorno per giorno di quello che sta succedendo. È uscito questo documento, c'è stata questa dichiarazione, il giudice in Inghilterra ha preso questa decisione, un nuovo sito pubblica altre cose. Attacco alla, quale carta di credito è stata messa sotto? L'American, mi pare, dai tifosi. La Mastercard, giusto, dai tifosi di Assange sono tutte cose che danno un senso, perché per esempio voi dovete anche tenere presente una cosa, non si tratta solo delle conseguenze sul piano economico delle banche o delle relazioni internazionali, pensate alle conseguenze sul piano del costume, a quanto l'esperienza di Wikileaks segnerà probabilmente l'immaginario collettivo e il rapporto degli utenti con la rete. Pensate per esempio, io sono convinto di una cosa, che a parte il fatto che tutti i servizi segreti del mondo in questo momento saranno mobilitati ad analizzare pelo per pelo quello che esce di o su Wikileaks, io sono convinto che sono già al lavoro per una conferenza internazionale che il più rapidamente possibile porti a una convenzione internazionale per la regolamentazione del web. È la cosa più immediata che pensi, cioè l'epoca del web libero probabilmente sta finendo. Questo non risolve il problema delle intercettazioni, ma per esempio mette sotto controllo la possibilità della diffusione di notizie sgradite o indesiderate. Questa è un'altra conseguenza che noi possiamo aspettarci nel caso Wikileaks. E allora, che fonti utilizzeremo? Sicuramente la stampa, sicuramente il web, però attenzione, tante altre fonti potranno esserci utili. Le statistiche di ogni ordine, grado e tipo. Perché per esempio alcune cose ci potranno essere dette da una statistica. La verità o meno di una informazione contenuta nei file di Wikileaks spesso sarà confermata o smentita da una statistica indipendente che nessuno poteva pensare di ricondurre a quella notizia. Documenti, per quanto possibile, documenti processuali o cose del genere, documenti ufficiali. Documenti del Dipartimento di Stato americano, delle singole cancellerie europee, eccetera, anche quelle si trovano in rete, intendiamoci. Bene, la raccolta, la cosa importante sarà la raccolta sistematica di tutte queste informazioni. Man mano noi svilupperemo parallelamente delle ipotesi da verificare. È stata un'operazione di intelligence, cioè quello che dice. A me ha colpito una cosa, io mi sono fatto un conto. Io non capisco assolutamente nulla di informatica, qui magari c'è qualcuno che ne sa molto più di me può spiegare meglio. Io ho fatto un altro conto. Allora, si parla di 400.000 documenti. Questi documenti sono stati sicuramente letti, in qualche modo analizzati, scelti, prima di essere distribuiti in rete, non ce lo sanno. Perché è evidente che c'è un criterio, perché voi vedete che stanno uscendo a pacchetti più o meno ragionati per temi, per argomenti, insomma. Quindi qualcuno li ha letti, li ha analizzati, li ha impacchettati. Solo su questa occasione siamo di fronte a 400.000 documenti. Ma mettendo in media 4 minuti a documento per leggerlo e per analizzarlo, cioè un minimo, cioè è uno proprio rapido, veloce, intelligente che capisce subito, beh, quei 4 minuti per leggere un documento, ma anche perché questi cablo non sono sempre di 5-6 righe, spesso sono cablo di 60, 70, 80 righe, quindi un po' di tempo ci vuole. 4 minuti per 400.000 documenti fa 1.600.000 minuti. Diviso 60 minuti fa 20.000 ore, 25.000 ore più o meno. 25.000 ore, se ci abbiamo 25 persone che ci lavorano, sono 1.000 ore lavorative a testa. Alla media di 10 ore al giorno. Guardate che sono ritmi da negrieri, cioè manco nelle filiere cinesi lavoreranno a questi ritmi. Significa 100 giorni di lavoro di 25 persone che a ritmi forsennati hanno letto e sistematizzato questa roba. E già, ma voi avete fatto anche l'operazione Iraq e anche lì si è trattato di centinaia di migliaia di documenti. E prima ancora Afghanistan, e poi adesso ci promettete liberazioni sulle banche su qualcosa come 2 milioni e 700 mila mail, e anche lì insomma sono tempi. E nel frattempo avete anche gli hacker che riescono a violare le reti per poter. Quanta gente avete a disposizione per fare questo lavoro? Se voi mi dite che siete in 40 persone che già non capisco dove stanno, come si vedono, come comunicano fra di loro, questo è un altro capitolo. Ma mettiamo che in un monastero sul monte Athos siano riuniti questi 40 che fanno sto lavoro e non ce la fai con i tempi. Cioè, attenzione, passate anche all'esame logico le notizie. Se hai una massa di informazioni, di documenti del genere, appunto. Voi pensate quanto tempo ci mettete voi a leggere tutti i documenti che escono di Wikileaks? E beh, è lo stesso problema che hanno loro. E allora, quale apparato ha lavorato a queste notizie? una massa di 400.000 documenti, qui il mio collega presente in aula me lo può confermare, è una massa che noi storici vediamo in anni e anni e anni di lavoro. Guardate ragazzi che passare a pettine fine 400.000 documenti non è un'impresa da niente. Io ho passato al pettine fine qualcosa come 2 milioni di fascicoli al Ministero dell'Interno, della Presidenza del Consiglio, eccetera, eccetera. Però attenzione, c'avevo una squadra di 10 ausiliari, io sono uno abbastanza veloce e soprattutto ci abbiamo messo 11 anni, ci abbiamo mica messo 2 giorni. Abbiamo passato una quantità sterminata di carte, va bene? Però ragazzi, il tempo se ne va. E se ne va anche per un motivo che vi sono di proprio il più stupido di questo mondo. Quando leggete, gli occhi se ne vanno. Non potete leggere per 10 ore di seguito, perché già dopo le prime 4-5 ore l'effetto ipnotico è tale per cui tu scorri i documenti senza leggere più niente di quello che c'è. Hai bisogno di interrompere, di prenderti, eccetera, e comunque più di un certo numero di ore al giorno non fai. Se hai l'abitudine al lavoro sui documenti, lo sai quanta fatica e quanto tempo richiedono. Allora non mi venite a dire che per di più siete stati a leggervi come al computer, peggio, con gli occhi che si stancano ancora di più. Ma voi, chi di voi alzi la mano? È capace di leggere di seguito 100 pagine al computer, un articolo di 100, o un libro di 100 pagine al computer. Chi di voi l'ha fatto mai? Beh, se fossero dei documenti riservati, però che possono scatenare un casino internazionale, credo che Sì, ma lo fai una sarebbe volta. possibile, Lo cioè. fai una volta. Lo fai per il primo giorno, lo fai per il secondo giorno, lo fai per 5 giorni, crolli. Stammi a sentire. L'adrenalina dopo Dopo un po' non lo c'è il leggi, controllo, poi non. c'è poco da fare, non lo leggi perché ti stanca la vista, perché poi i documenti hanno questa cosa dannata, che si somigliano tutti, ma sai quante volte rovini tutte copie, giustamente, e allora devi stare attento a quel rigo che è cambiato e tu bestemmierai l'autore di quel documento che ti sta facendo perdere tempo per mezzo rigo che poi non cambia niente, però te lo devi vedere. Guardate, l'abitudine al documento mi fa capire che quella non è roba che possono aver fatto 40 persone. Lasciamo da parte i problemi dell'hackeraggio, quello non ne so niente, non voglio commentare. Solo la lettura e il trattamento di quei dati non può essere fatto da 40 persone, in quei volumi e su quei tempi. Qui stiamo parlando di mesi, sono documenti al massimo di 2-3 anni fa. No, non sono documenti remoti nel tempo. Allora, in quei tempi hai bisogno di una massa di persone assolutamente maggiore. Ma poi, cioè, che mi hai fatto prima l'operazione Afghanistan, poi Iraq, poi adesso i documenti della diplomazia americana, il mese prossimo quello sulle banche. Troppa grazia, Sant'Antonio, troppa grazia, cioè troppa la roba qui. Quindi già questo a me personalmente, che mi occupo più o meno professionalmente della storia dei servizi segreti, eccetera, odora male, mi dà forti dubbi. Quindi già per esempio mi fornisce mezza risposta, guarda, non dico la risposta, ho detto mezza risposta a quei dubbi iniziali, di fronte a cosa mi trovo. Dopo l'analisi sistematica, per esempio, mi farà venire in mente una cosa, ma come mai l'azione di contrasto americana è così inesistente, così inconsistente? Non hanno nemmeno provato a dire, ma no, sono falsi, sono veri, ma in mezzo c'è un sacco di documenti falsi. Non hanno provato a fare un'azione di contrasto sulla rete, cioè, minimo che avrebbe fatto in altri tempi un servizio sarebbe stato di beccare un sito simile, passargli un'altra paccata di carte diverse e creare un polverone per cui quello è vero, quello non è vero, mischi tutto e poi vabbè, chi capisce, capisce. Cioè, C'è stata una reazione di contrasto assolutamente inconsistente. Questo è un elemento che io devo notare e devo tenere presente. Quindi, sì, ma ti pare che... Sì, è un'altra cosa, cioè Assange l'hai arrestato e probabilmente l'idea è quello di portarsi negli Stati Uniti, di trattarlo con interrogatori piuttosto pesanti perché loro vogliono sapere come funziona Wikileaks, chi sono, dove stanno, quali sono i loro server, eccetera, eccetera, perché devono intervenire per schiacciare la testa del serpente. È probabile che questo è quello che avviene in testa. Che ci sia un'operazione evidente, perché io non ho mai visto un mandato di cattura internazionale. Io collaboro con la magistratura come perito. Mai visto un mandato di cattura internazionale per un reato come violenza sessuale. Mai. Ma quando mai? Per un reato di quel tipo, che obiettivamente, ma non voglio dire che un reato di violenza sessuale sia un reato bagatellare, me ne guardo bene. Ma insomma, un mandato di cattura internazionale con l'Interpol che si muove per una cosa del genere è solo per cose di ben altra entità che vedi cose di questo genere. Quindi sicuramente stanno lavorando su Assange, ma come mai non c'è nessuna azione di contrasto sul terreno, sulla rete? Il terreno di scontro è la rete. Tutto quello che hanno fatto e tardivamente è stato l'attacco del sito per bloccarlo, che diciamo la verità è quello che già era venuto fuori su Twitter l'anno precedente, e insomma non ci voleva la CIA per fare questo, in realtà qui glielo fai prima, quelli hanno anche annunciato che stavano per uscire con questa roba, tu hai aspettato che uscisse per farli dopo, cioè guardate che quello che si capisce, e non è detto che non sia vero, è che il livello dei servizi di informazione americano dal punto di vista professionale è crollato a livelli assolutamente indecenti. Cioè, e io non escludo affatto che questa sia una delle spiegazioni, eh? Allo stato attuale è assolutamente sorprendente. La condizione storica, c'è chiaro che negli anni 50 vedere come si faceva praticamente su un computer. Adesso no, non è solo questo, non è solo questo. In altri anni io ricordo quale fu l'azione raffinatissima che fecero i servizi americani quando viene fuori il documento del film Manuel, e che era un falso che diceva la verità, e che cosa combinarono gli americani per insabbiare quel documento pericoloso, che era un 1% di quello che sta uscendo adesso, eh? No, c'era un'altra capacità. Registro questo problema, non tutte le risposte, le domande che ci facciamo avranno delle risposte univoche. Soprattutto se si lavora sul presente, e uno storico deve trattare il presente esattamente come tratterebbe un principato estone del 400. Quindi a un certo punto tu fai la ricerca e i documenti non ti assistono più, perché non li trovi? E perché non c'è il documento su quello che stai cercando? Che fai? Lasci il quesito insoluto. Devi avere l'onestà di dire: io arrivo fin qui, e qui poi i documenti non mi reggono più. Quindi devi sapere che il tuo è un lavoro che avrà delle parzialità, però ciò non di meno lo puoi fare. Adesso io mi fermo un attimo perché così ripigliate un po' di fiato e di scusate. Scusatemi se ho ridotto essenzialmente a un certo tipo di documenti, ma questo richiederebbe molto altro tempo sviluppare il discorso sulle fonti aperte, per esempio fonti audiovisive, eccetera, eccetera. Per ora, un momento, fermiamoci un attimo, ci siamo per lo più focalizzati sul giornale e sulla rete. Vediamo adesso vostre richieste e precisazioni, sensi, consensi, tripudio, ovazioni, non lo so, fate voi. Allora, forza. Di dissoluzione dell'Ucraina all'inizio, ma sì. In che senso? No? Dunque, se legge, no. Allora, se legge, c'è un numero di Limes in cui il discorso è sviluppato abbastanza bene, numero del 2008, famoso incontro fra Putin e Medvedev, quando Putin dice: vedi George, l'Ucraina non è nemmeno una nazione, perché in realtà loro erano in realtà il pezzo Leopoli, il resto gliel'abbiamo dato noi, e questi per gratitudine ci ripagano in questa maniera, eccetera eccetera. E lì si sviluppa tutto un discorso. Allora, siamo nel momento in cui ci sono le rivoluzioni arancione, ti ricordi? È lì che l'operazione non è un'operazione militare, è un'operazione tutta politica, di disgregazione dall'interno, prima di tutto attraverso l'esasperazione dei conflitti etnici interni fra l'Ucraina cattolica e l'Ucraina ortodossa. I rapporti non sono particolarmente cordiali, non lo sono mai stati. Pensa che durante l'occupazione nazista l'Ucraina cattolica, la Galizia, cioè, erano collaborazionisti e avevano fondato l'OUN, che collaboravano con i nazisti, salvo poi litigarci e passare anche loro per la parte degli inglesi. L'Ucraina ortodossa era tutta con la resistenza, era tutta antitedesca. Queste poi sono cose che lasciano cicatrici molto lunghe. Quindi la prima cosa è lavorare sulle spaccature, e vedi la storia a cosa serve, serve anche a capire le radici dei conflitti presenti. Prima cosa, si lavora sui conflitti interni. Seconda cosa, si lavora alla elezione, alla vittoria elettorale di uno schieramento piuttosto che un altro, come è accaduto. Terza cosa, si lavora alla conquista del partito che ha vinto le elezioni. Prima è un partito genericamente amico, poi ci si piazzano dentro gli uomini più, e poi si conducono una serie di campagne stampa. In questo senso l'isolamento, cioè South Stream, non è uno scherzo da poco, perché l'Ucraina è andata avanti per anni, sia come riscaldamento, sia come trasporti, sia come energia industriale, sui diritti di prelievo di passaggio del gas russo. Il problema non si poneva fino a quando c'era l'Unione Sovietica, per cui era tutto Unione Sovietica. Quando l'Ucraina diventa indipendente, si pone il problema dei diritti di prelievo per il transito, che vengono concessi, devo dire, anche con una certa generosità, non a prezzi notevolmente bassi. L'Ucraina ha continuato a prelevare abbondantemente gas anche oltre i limiti concordati, non pagando nemmeno la fornitura ai prezzi concordati. Cioè, praticamente questi sono campati energeticamente per tutto quello che riguarda la produzione, i trasporti e il riscaldamento, che da quelle parti è un'esigenza piuttosto seria, senza pagare una lira. Nel momento in cui letteralmente ti chiudono i rubinetti, tu ti trovi in una situazione di totale destabilizzazione sociale interna, perché non sai più come mandare avanti la baracca. Quindi l'operazione South Stream è un'operazione di destabilizzazione politica, è il rendere ininfluente quel paese e dire: bene, ti condanno all'assedio energetico, vediamo come ne vieni fuori. La vuoi l'energia? La compri, e la compri a prezzo di mercato, vendendo la tua produzione agricola. Vediamo quanta energia puoi comprare col tuo grano. Capisci qual è l'operazione? Cioè, è da un lato un assedio economico, una destabilizzazione interna, un programma di graduale assorbimento politico, poi coltivando le linee di frattura storiche. Non vedrai nessun carro armato dell'Armata Rossa entrare, anzi l'Armata Russa, pardon, entrare in Ucraina. Non si usano più queste cose. Si usano in Georgia, ma perché Giugasvili era cretino e vabbè, quello se l'è andata a cercare di lì. Ceceni è diverso. Ceceni hai di fronte uno stato che non è nemmeno uno stato sovrano, non è riconosciuto, cioè è una situazione molto più complessa, che viene presentata come un'operazione di polizia interna, dove uno stato chiede l'intervento di uno stato alleato perché una sua regione si sta staccando. Situazione piuttosto complicata. Posso fare una domanda? Cioè, una, sì. Una domanda, una richiesta di chiarimento. Non so se veramente avete sentito l'inizio. L'introduzione diceva la geopolitica, una materia che, insomma, come dire, non fondata scientificamente e così via. Siccome molto spesso vengono, si abusa del termine geopolitica, oppure è considerato un termine neutrale, credo che per molti sia così. Secondo me, se, allora, se ci fosse un... Geopolitica non è il diminutivo affettuoso di geografia politica, non è la geografia politica per gli amici. Geopolitica è una cosa precisa, è la scienza del dominio. Viene, nasce in ambiente sostanzialmente nord europeo, viene ripresa in Germania, ha due principali scuole, una che teorizza il controllo del cosiddetto Earthland, cioè il cuore della Terra, l'isola, zolla continentale centrale, l'altra invece Rimland, è la scuola anglo-americana che invece teorizza il controllo delle linee marittime. In realtà non è una scienza, è la strategia, secondo voi, cos'è? È una scienza? Sì e no, nel senso che la strategia è soprattutto un progetto d'azione, è un progetto militare o politico. La geopolitica è un progetto politico, non è una disciplina scientifica. Una disciplina scientifica per sua natura non è prescrittiva. Io faccio una determinata ricerca farmacologica e scopro che certe sostanze somministrate producono certi effetti. Va bene? Questo non significa automaticamente se ti viene il raffreddore prendi lo sciroppo. La prescrizione è quello che farà il medico, attenzione, non in sede di diagnosi, in sede di terapia. La scienza è la diagnosi, non so se è chiaro. Da questo punto di vista la geopolitica non è scienza, non è conoscenza pura, ma è terapia, è comportamento, è azione. Non è separabile dall'azione politica. La geopolitica è la scienza dell'impero, se volete, cioè il manifesto politico di un soggetto a livello internazionale. Ecco, da questo punto di vista sarebbe più neutro parlare di relazioni internazionali. In realtà negli ultimi anni geopolitica è stata scambiata come una sorta di disciplina globale che indica le relazioni internazionali, l'economia internazionale, la strategia militare, ma tutto sempre finalizzato a una azione, non solo alla conoscenza. La scienza per sua natura risponde sempre a quesiti di conoscenza che poi possono essere utilizzati. La tecnologia non è la scienza, è l'applicazione della scienza alla produzione. Allora, la geopolitica non è la scienza, se volete è l'applicazione di conoscenze scientifiche a progetti politici. Anche se ormai questa è una battaglia persa in partenza, perché ormai l'uso della parola geopolitica è così generalizzato. Il bello è che poi ognuno gli dà il significato che gli pare, per cui in realtà è una parola che sta anche rapidamente perdendo il significato, perché quando una parola viene usata in troppi sensi finisce con non significare più niente di preciso. Oh, però al di là del merito del caso Wikileaks, mi interessa dal punto di vista metodologico chiarire il discorso di come si fa una ricerca del genere. Naturalmente abbiamo fatto solo in tempo un po' a impostare il tema. No? Nessun dubbio? No. Sentite, però, siccome c'è un vostro collega che ha conoscenze informatiche, mi farebbe piacere che illustrasse, se sei disponibile, nel modo più semplice e in pochi punti, quali sono i dubbi sulla versione, diciamo, dell'hackeraggio. Ma allora, diciamo che sono due dati, la quantità di dati diffusi e il tempo, che pongono delle domande e dei dubbi sulla teoria dell'hackeraggio. Perché nel momento in cui si interviene con un attacco, magari cerca di sottrarre questi dati dai server, è difficile che con un singolo attacco si riesca a ottenere questa mole di dati. È quasi del tutto impossibile. Perché ci sono delle strategie di difesa che vengono messe in atto e diciamo impediscono questo tipo di azione. Allo stesso tempo, prolungare un attacco su un periodo così ampio, come 2 o 3 anni sono intercorsi, aumenta esponenzialmente il rischio che tale attacco venga individuato. Praticamente non è mai successo di un genere, è impossibile. Se vogliamo vedere il nostro piccolo, la rete universitaria occorre un attacco del genere solo alla nostra rete universitaria di informatica, che sicuramente non ha gli strumenti di difesa che possono avere quelle pensieri il più possibile. Si può ottenere magari dei singoli dati in quantità molto limitata con un attacco, ma al di fuori di quello, ottenere, alcuni giornalisti hanno parlato di ma sarà stato copiato il database, è inconcepibile perché al di là anche degli strumenti difensivi della rete stessa verso l'esterno o verso anche l'interno, l'accesso ai database è regolamentato con pratiche e procedure molto rigide. Se io voglio avere accesso a uno stesso file che io ho consegnato, cioè il rapporto che io ho consegnato, io stesso devo effettuare una richiesta. Questa richiesta non è detta che mi venga concesso a me la possibilità di interrogare il database per riavere dentro quel file, ma può darsi anche che lo faccia un'altra persona. E poi soprattutto quando viene attivato quel file, non è il database, non è una grande stanza dove c'è dentro tutto e un elenco sconfinato, ma è suddiviso. E venendo suddiviso è praticamente impossibile che una mole di dati così ampia che passa dall'Afghanistan alle banche al venga all'Iraq, venga mantenuto in una stessa, diciamo, luogo, al di là anche del luogo fisico, ma anche del luogo informatico. Quindi ci sarebbe dovuto come in essere un attacco continuativo e mirato a indirizzi diversi, e ogni volta violare quell'indirizzo e ogni volta lasciare che praticamente fare in modo che questa violazione non sia stata vista e diciamo in qualche maniera individuata. Quindi è praticamente impossibile che qualcuno, come non so, ad esempio un giornalista del Fatto Quotidiano, abbia portato una notizia che dicevano che un personaggio abbia fatto una copia su un CD o su una chiavetta USB del database, una cosa impossibile. Poi, oltre a questo, vanno chiariti due aspetti. Che uno è la procedura di integrazione database. Nel momento in cui io effettuo l'integrazione database, la mia richiesta viene comunque archiviata. Cioè, su un altro database viene archiviato tizio X ha in questa data effettuato questa richiesta ed è stata data questa risposta in questa data. Incrociando queste richieste si può ottenere praticamente l'elenco del personale che ha effettuato richieste multiple su quei documenti. Quindi se un'altra teoria che vuole che praticamente una persona abbia fatto questo accesso al database, magari diciamo interna alla stessa amministrazione americana, abbia recuperato il database, messo da parte e poi dato alla Wikileaks, diciamo che è una teoria abbastanza vantaggiosa perché? Appunto perché le richieste sono rintracciabili. Le richieste multiple ai documenti vengono individuate, più i documenti richiedi più sei facilmente identificabile. E poi il fatto di comunque ottenere tutto quanto questa mole di dati a una sola persona è impossibile, anche per una persona interna. Oltre al fatto che proprio le procedure vogliono che non sia un accesso diretto, cioè io funzionario non posso accedere, ma devo interfacciarmi con altri funzionari che inviando l'accreditamento effettuare la richiesta, un altro funzionario magari la porta avanti, anche se per alcuni tipi di documenti che poi non sono così segreti può essere, diciamo, la procedura informatica un po' più blanda di sicurezza, un po' inferiore, comunque non è di certo questi livelli da copia e incolla. Poi, sempre contro il periodo dell'appagaggio, per così dire, esistono delle procedure di crittografia di dati che sono estremamente sicure e che non sono ritenute violabili da nessuno. Nel senso, sono gli stessi dipartimenti americani, come ad esempio la NSA, che si occupa di fornire le procedure e i metodi di estrazione dei dati e anche della crittografia. L'NSA ha sviluppato un algoritmo che si chiama ICE, che ha sostituito il DES, che era il vecchio algoritmo. Una volta, non so se vi sapete cos'è la crittografia, però comunque diciamo che veniva usata anche nei tempi abbastanza remoti, tempi più docevole anche di utilizzata. Nel momento in cui ho un testo in chiaro, la crittografia mi permette di metterlo... Non è altro che la cifratura di un documento. Sì. Diciamo che l'NSA ha sviluppato questo algoritmo, che è estremamente potente e nessuno è mai riuscito a decrittarlo, violarlo, a trovare dei punti deboli. E su queste cose si sono concentrate persone di grosso calibro, nonché gli stessi servizi segreti e gli esperti sia della Cina che della Russia, che alcuni europei che gli stessi americani. E questi algoritmi vengono normalmente, questo algoritmo in particolare, vengono normalmente usati nelle comunicazioni e nella creazione di documenti. Per cui pensate... Tutti i tipi di documenti. Allora, ha diverse gradi di sicurezza. Ha 256 bit, è individuato dall'NSA come è sicuro per i documenti top secret. Questo tipo di documenti può essere utilizzato in algoritmo inferiore, 192 o 128. Ma lo stesso, quello più inferiore, diciamo, il 128, diciamo che al di fuori degli Stati Uniti non può essere comunque, insomma, a meno che si scoprano domani, quindi comunque sono una buona percentuale di possibilità che praticamente è impossibile decifrarlo. Per dire l'importanza comunque della crittografia, che viene utilizzata sia nella fase di trasmissione che nella fase di creazione, anche se fosse stato creato da database, l'accesso interno ai documenti diciamo che sarebbe una cosa da escludersi, perché sarebbe comunque crittografato. E con chiavi diverse. Per cui mettiamo che anche la crittografia sia piuttosto banale e semplice, per pure ipotesi. I dati crittografati su NIRAC vengono crittografati in svariati database diversi con chiavi diverse di accesso diverse. Quindi bisognerebbe conoscere una serie molto ampia di chiavi per poter accesso a tutta questa mole di documenti. E diciamo, come diceva prima il professore, la mole di documenti resta un fattore chiave, sia per la capacità di analizzarli, sia per come, diciamo, dal punto di vista informatico possono essere stipulati i sistemi. Poi ci sono anche altri aspetti, però comunque bisogna tenere chiaro che la sicurezza della comunicazione e della gestione delle informazioni sui database sono due aspetti fondamentali. La violazione del database non è così semplice come si è fatto credere, e la violazione del sistema di sicurezza informatica non è così semplice come si è fatto credere. Come si vuole fare per vedere? Se ci fossero stati chiaramente dei casi di violazione, diciamo che è da escludersi che la mole di documenti trafugata sia compatibile con queste azioni di hackeraggio, proprio per la quantità. E poi ci sono tanti altri aspetti. Questo, no? Quindi cosa valorizza, tra le due ipotesi, quella di una mole interna o quella di una bontà cellulare? Sì, siamo ancora... Allora, bisogna approfondire una serie di argomenti che, ad esempio, gli stessi database sono diversi e sono gestiti in maniera diversa. Secondo che siano militari, che siano dei cartogrammi, che siano di altre questioni governative. Quindi bisogna cercare di capire bene il funzionamento di quei database prima di valutare bene. Però comunque se si trattasse di 10, 20, anche 100 documenti, potrebbe l'ipotesi del hackeraggio essere credibile, sempre con tutte le... su questa mole dati è possibile. Poi mi scusa. No, dicevo, c'è cioè, tutta questa serie di informazioni, cioè quale teoria valorizza, cioè quale ipotesi valorizza? Quella della Allora, lì si può davanti a, diciamo che questo per dirlo bisogna valutare l'inserita dell'ipotesi. Però comunque, se questi documenti sono usciti volontariamente da lì, bisogna stabilire chi sono gli interessi per cui questa procedura si sta messa in atto e bisogna valutarlo con altri strumenti più alti. Però comunque si può escludere a priori la tirata. Io dal punto di vista informatico non posso dire. Se io ho accesso diretto alla sala dei disegni, dei cimini artisti, tenendo fuori il discorso della crittografia, io in teoria posso tirare giù quanto? No, perché... Scusami. Sì. Perché noi abbiamo una, diciamo, tendiamo a immaginare i sistemi informatici per questi discorsi sulla base di quello che abbiamo fatto. Io posso avere accesso fisico al set, che è una cosa da escludersi perché c'è una sorveglianza fisica armata al set. Ma senza, per cui anche se riesco a entrare lì, non è detto che ci siano gli strumenti che mi permettono di prendere quello che c'è lì e portarlo fuori. In particolar modo gli strumenti informatici per prendere quello che c'è su quel server e portarlo fuori non esiste. Non esiste la possibilità di accesso alle macchine, a quei server che ritengono quelle informazioni con altre, diciamo con altri strumenti informatici quali caso USB, masterizzazione di CD, copia e incolla, sono tutte operazioni estremamente vietate. Alla stessa maniera i computer che hanno accesso a questi server per le interrogazioni hanno lo stesso grado di sicurezza. Su quel computer non si possono creare un USB, non si possono mettere la mascherizzare CD. Proprio per garantire che questo non accada. Poi, okay. E questo posso portarvi un esempio di una nota, c'è una grossa azienda nel nord Italia che produce componenti elettronici. Senza fare nomi, però questa azienda è in lizza per avere l'accreditamento da parte del Pentagono per produrre delle schede informatiche di accesso. Quindi sicuramente hanno il NOS. Come? Sicuramente hanno il NOS, il nulla osta di sicurezza. Ci stanno lavorando su questa cosa. Per farlo devono sì. averlo in concessione. Le richieste per produrre questi componenti sì. da parte dell'amministrazione sì. così. Questi componenti sono senza nessun dato sopra, cioè solamente nei circuiti bianchi. Però le richieste sono che venga costruita una rete come server indipendente dal resto della vita. Per server vengono mantenuti in un locale in cui è impossibile accedere esternamente. Sicurezza fisica armata all'esterno di questi server e gestione praticamente per l'accesso a questi server con una produzione interna dell'azienda ma che si è separata dal resto di tutta la produzione. Quindi creare un'azienda nell'azienda con un livello di sicurezza altissimo e sul quale gli Stati Uniti devono avere possibilità di accesso a un controllo di verifica in un momento. Sono in corso queste diciamo, trattative e valutazioni economiche per rispondere a questa, però queste sono le prime richieste che sono attuali. Ti devo interrompere perché purtroppo c'è la lezione dopo. Grazie al professor Giannulli, ci sono le firme, ci vediamo venerdì prossimo per l'ultima lezione, i crediti e grazie mille.